9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci qua in studio per occuparci di Copenaghen. Se permettete, io inizierei oggi rendendo un omaggio ad Andrea Marcenaro, che ieri mattina mi ha fatto venire in mente l'idea di fare la puntata esattamente su questo. A Copenaghen, voi sapete, dal 7 dicembre per 2 settimane i grandi della Terra si riuniscono per fare il punto del dopo Kyoto, che espira tra poco, il controverso trattato col quale ci si è dati obiettivi di riduzione delle emissioni dei gas serra, e si sono posti le premesse per il mercato dei certificati verdi, cioè per i diritti alle emissioni nocive, per così dire. Il problema è come aggiornarlo, con quali obiettivi. L'Europa molto impegnata in una gara con obiettivi stringenti, il resto del mondo, come si è visto al vertice APEC in questi giorni in Asia e negli incontri bilaterali con Barack Obama e i cinesi, direi proprio di no. Diceva Andrea Marcenaro ieri mattina, proprio ora, giusto adesso che Bush se n'era andato, che gli iperpotenti Theo Kohn erano stati allontanati da Washington con le pive nel sacco e i guerrafondai coi capelli da bovari stavano vivendo un momento difficile, proprio ora che l'integralismo stava cedendo posizioni e con esso stavano retrocedendo l'ostentazione e le volgarità, mentre stavano prevalendo i comportamenti parchi, la civiltà dei rapporti, il rispetto per gli altri, il dialogo col diverso, proprio nel momento in cui la correttezza politica stava riprendendosi il ruolo che le spetta, la speranza del politicamente corretto aveva ripreso a volare alto, ma giusto adesso. Proprio adesso Barack Obama doveva andare fino a Pechino per dire che chi se ne sbatte delle anidride carbonica e sono tornate le mezze stagioni, ecco, un po' irriverentemente. Il punto è questo, vi faccio una brevissima rassegna stampa di quello che trovate oggi sulla stampa internazionale italiana su questo argomento per farvi un'idea, comunque la pensiate, prima di presentare gli ospiti con i quali approfondiamo poi tecnicamente, politicamente e soprattutto tecnicamente i punti all'ordine del giorno. Allora, comincio con quello che secondo me è il settimanale internazionale, il giornale internazionale che dedica più sistematicamente spazio a questo. No, per una volta non è l'Economist, è Der Spiegel nella parte inglese. Se andate sul sito trovate molti articoli, molti approfondimenti tecnici, ce ne sono alcuni in 4 punti adesso dedicati al dopo APEC, cioè all'esito un pochino di ombre proiettate sul futuro di Copenaghen dopo questi incontri che ha avuto Barack Obama in Asia e in Cina, e trovate individuati esattamente i punti che erano all'ordine del giorno della conferenza di Copenaghen. Sul Financial Times di oggi trovate a pagina 11 un editoriale firmato da Nancy Birdsall e da Arvind Subramanian, che è il presidente dell'Arvind Subramanian e senior fellow della Center for Global Development. E che cosa sostengono? Sostengono una tesi che non può che irritare i difensori di obiettivi molto impegnativi per Copenaghen, perché il titolo è molto chiaro, dice Forget Emissions, Focus on Research, cioè dice dimenticate gli obiettivi dei tagli stringenti alle emissioni, perché la tesi è questa qui, tagliare i consumi di energia spingerebbe miliardi di persone nel mondo in via di sviluppo dal livello appena superiore alla sussistenza in cui sono giunti negli ultimi 10-15 anni, back to the dark, li risospingerebbe indietro verso l'oscurità. Wall Street Journal di oggi, pagina 15, anche qua un'opinione che sicuramente non può che irritare coloro che invece vogliono Copenaghen con obiettivi stringenti. Trovate a pagina 15 un interessantissimo editoriale, che però è un articolo commentato, nel quale si racconta dello scontro che sta animando uno degli apostati, della climatologia ambientalista, Stephen McIntyre, che si è impegnato in questi ultimi mesi in una campagna contro il molto stimato professore Keith Briffa dell'Università dell'East Anglia. Keith Briffa è autore di alcuni grafici che sono quelli più pubblicati dai media internazionali e italiani per dimostrare che appunto le emissioni di gas serra non fanno altro che sciogliere i poli, che le temperature sono in costante aumento. Trovate qui descritto come all'interno della controversia dell'IPCC, cioè dell'Intergovernmental Panel on Climate Change, che è lo strumento attraverso cui la climatologia ambientalista ha potentemente orientato la raccolta di dati verso la dimostrazione che stiamo andando verso terribili conseguenze ambientali per effetto delle emissioni nocive, e trovate però qui indicate alcune divertenti cose per cui, per esempio, nell'IPCC si indicava il 1998 come anno più caldo negli Stati Uniti di tutto il secolo, invece era il 1938, come restringendo i campioni di rilevamento solo ad alcune aree invece che in maniera più estensiva i dati venissero falsati, e così via. Vi sottopongo questi articoli, come avete capito, perché io stesso sono un pochino critico. Però, detto tutto questo, la questione è molto seria. Trovate oggi poi numerose interviste di Ban Ki-moon, il segretario delle Nazioni Unite, sulla Stampa e su Repubblica. Sulla Stampa il segretario delle Nazioni Unite indica quattro elementi come quelli fondamentali per Copenaghen. Quali sono questi quattro elementi secondo il segretario generale delle Nazioni Unite? Primo, concordare precisi obiettivi per i paesi sviluppati. Secondo, stabilire l'impegno dei paesi in via di sviluppo da sottoporre a verifica per un'ulteriore riduzione delle emissioni. Terzo, decidere un sostegno finanziario ai paesi in via di sviluppo. Quarto, fissare l'impegno finanziario dei paesi ricchi in 10 miliardi di dollari l'anno per la transizione al 2012, quando il protocollo di Kyoto si estinguerà. Ricordo a tutti che i 44 miliardi appena chiesti dal vertice FAO naturalmente non sono stati sottoscritti da nessuno, mentre invece Ban Ki-moon dice 10 miliardi per Copenaghen. Fine di questa brevissima sintesi iniziale, andiamo ai nostri ospiti. Abbiamo collegato, e le ringraziamo molto di questo, Corrado Clini, il direttore generale del Ministero dell'Ambiente. Buongiorno Clini. Buongiorno. Carlo Stagnaro, che è direttore di Energia e Ambiente dell'Istituto Bruno Leoni. Buongiorno Stagnaro. Buongiorno. Ed Ermete Realacci, che è deputato del PD, presidente della Fondazione Simbola. Buongiorno Realacci. Buongiorno. Clini, comincerei da lei, al di là della mia un po' disomogenea, un po' troppo tagliente, aspra rassegna stampa e del richiamo dei punti aperti dopo questi giorni di incontri asiatici sul futuro di Copenaghen. Lei che cosa direbbe in realtà dell'agenda di Copenaghen? Che cosa realisticamente si può immaginare resti davvero conseguibile? Guardi, noi abbiamo avuto l'altro ieri e ieri una riunione a Copenaghen, appunto, alla quale hanno partecipato più o meno tutti i paesi più importanti, gli Stati Uniti, la Cina, i paesi europei, l'India, il Brasile. Qui emergono due cose. La prima, molto chiara, che peraltro alcuni di noi a livello europeo avevano detto molte volte negli ultimi anni, c'è un ridimensionamento evidente della cosiddetta leadership europea sui cambiamenti climatici, perché l'Unione Europea e la sua maggioranza ha continuato a immaginare che il mondo si organizzasse per affrontare la sfida dei cambiamenti climatici con le stesse metodologie, con lo stesso approccio usato dagli europei, mentre invece i temi che sono stati posti sul tappeto dagli Stati Uniti e dalla Cina, ma anche dal Brasile, dall'India, dal Canada, sono direi più sostanziali, meno giuridici di quelli posti dall'Unione Europea. Sostanzialmente che cosa viene detto? Se siamo tutti d'accordo, peraltro tanto ribadito da tutti i leader mondiali all'ultima assemblea delle Nazioni Unite, che è necessario limitare l'aumento della temperatura nei prossimi 100 anni entro i 2 gradi rispetto ai livelli della rivoluzione. Io devo un secondo interromperla, Clini, perché purtroppo non, per questioni di qualità del collegamento finisce proprio per perdersi le questioni tecniche di cui sta iniziando a riferire. Quindi proviamo un secondo a richiamarla, se è d'accordo. D'accordo. Prego. Nel frattempo io mi sposto su Realacci. Ermete, perdona l'eccesso naturalmente con cui ho introdotto, no? In realtà volevo sapere da te, anche da te, la valutazione di giusta preoccupazione da un punto di vista della perdita di caduta europea, ma questa perdita di presa europea non dipende forse anche dal fatto che l'Europa su questo ha un po' sbagliato a darsi gli obiettivi nel dopo Kyoto, cioè non si è reso conto che le due sponde, quella dei paesi in via di sviluppo che non intendono sottoporsi, essendo adesso nel boom per così dire, e per di più col mondo che gli continua a dire trainate lo sviluppo, e quelli dei paesi avanzati che hanno i costi con le industrie che dicono ma siete matti a sottoporci a questi costi, l'Europa non si è reso conto che queste due sponde si allargavano sempre di più, secondo te? No, io penso che la debolezza europea è una debolezza politica che purtroppo si vede in molti campi. E vorrei distinguere due questioni, una francamente non la vorrei affrontare, cioè sul fatto se esiste o meno questo dibattito, perché d'accordo, voglio ricordare che nel passato fior di tecnici hanno detto che il fumo non faceva male, che l'amianto non faceva male, e credo che nessuno di noi oggi viverebbe in una nube di amianto e pensa che fumare faccia bene alla salute, no? C'è un dibattito scientifico. Ovviamente ci sono voci diverse, uno deve capire alla fine qual è l'opinione prevalente, e voglio ricordare che nessun grande paese del mondo oggi nega che quel problema ci sia. Corretto. C'è una discussione su come affrontarlo, anche la Cina da sempre non sostiene che il problema non c'è, dice solo non siamo noi a dover fare il primo passo, no? Da questo punto di vista io penso che è importante che da Copenaghen venga fuori un impegno politico meno evanescente che una dichiarazione di principi, insomma che sia un po' meglio del vertice FAO, per se vogliamo adoperare un riferimento negativo dal punto di vista del l'inutilità di alcuni appuntamenti, e se poi gli impegni precisi si spostano all'anno prossimo non è che a mio avviso sia un dramma, l'importante è che intanto si mettano in atto tutte quelle politiche che oggi sono coerenti anche con la competitività della nostra economia. Noi siamo poi molto schizofrenici, no? Voglio fare un esempio concreto su un settore che normalmente non viene tenuto al centro dei problemi. Chi ci avesse detto 6 anni fa che la Fiat non solo avrebbe continuato a produrre automobili, ma avrebbe acquisito senza versare un euro la quota di controllo della Chrysler? Io ricordo che 2 anni fa la Fiat ottenne circa 2 miliardi di dollari di rimborso dalla General Motors perché la General Motors non la riteneva più un buon affare, no? Soltanto perché sapeva fare autovetture più piccole che inquinano di meno e che consumano di meno, sarebbe stato considerato un marziano. È evidente che le caratteristiche della competitività dell'economia mondiale stanno cambiando. Il problema è capire come anche gli obblighi che derivano dal combattere i mutamenti climatici diventano un fattore di competitività delle nostre economie. Ce ne sono tutte le condizioni e l'Europa da questo punto di vista deve essere soprattutto sul terreno politico un soggetto più forte e coeso, perché il segnale preoccupante che arriva dal vertice, poi in parte corretto ieri, dall'incontro fra Stati Uniti e Cina, è uno spostamento verso il Pacifico dell'asse del mondo. Io trovo molto interessante e corretto, e condivido il paragone che ha appena introdotto Realacci con la vicenda Fiat. Spiego perché. Come quello che ha detto Realacci è avvenuto non solo per la geniale capacità di un manager come Marchionne, è avvenuto perché in realtà poi il mercato è retto dagli incentivi. Le tecnologie verdi, di cui giustamente Realacci dice oggi sono un drive individuato da tutti come fattore di crescita, di sviluppo, un settore prioritario per riorientare gli investimenti, e anche in quel caso, come Realacci mio maestro, dipendono da come vengono incentivati, perché molte volte il costo in termini comparati o interviene l'incentivo pubblico, il sussidio pubblico, oppure nel breve, difficilmente ancora oggi, economicamente conveniente. Allora, la questione della competitività si risolve anche immaginando quanto stringenti siano questi obiettivi internazionali, perché è di lì che dipende l'incentivo pubblico. Lei, Stagnaro, che dice? Il mio ragionamento non sta in piedi? No, beh, secondo me il suo ragionamento funziona, però farei un attimo un passo indietro, nel senso che bisogna capire una cosa: se gli obiettivi di riduzione delle emissioni e gli strumenti che vengono adottati per raggiungerli servono per salvare il mondo, tra virgolette, nel qual caso decideremo se cosa e quanto fare, oppure se servono, oltre che per salvare il mondo, anche per rilanciare l'economia, nel qual caso la discussione è molto più semplice. Ora, mi pare che ci sia sempre una certa confusione tra questi due piani, ma una parola in qualche maniera definitiva è venuta da un documento non sospetto pubblicato pochi giorni fa dall'Agenzia Internazionale dell'Energia, che è il suo rapporto annuale, che quest'anno ha una grandissima enfasi sui problemi ambientali e climatici. Spiega che la recessione non deve, e i problemi creati dalla recessione non devono distrarre il mondo dall'esigenza di investire in questo settore, e scrive queste parole, cito testualmente perché le ritengo importanti: il costo degli investimenti addizionali indispensabili per indirizzarci lungo lo scenario 450 ppm, cioè di riduzione delle emissioni, è compensato almeno parzialmente dai benefici ottenibili sul versante economico della sicurezza energetica e della salute. Ora, dire che un investimento è compensato almeno parzialmente, in italiano corrente significa che è un investimento a rendimento negativo, cioè che costa più di quanto renda. Dopodiché va benissimo metterci d'accordo sul fatto che è importante avviarci verso un'economia con un minor tasso del carbonio e cercare strumenti che consentano di farlo nel modo meno traumatico possibile, però almeno è importante non vendere l'illusione per cui questo ci conviene. Dobbiamo sapere che questo è un costo e di fronte a un costo si tenta di minimizzarlo in maniera tale da renderlo più sostenibile. Che è come dire appunto che quindi saranno gli incentivi pubblici e la cogenza degli obiettivi da raggiungere quelli a giustificare meglio gli incentivi pubblici. Realacci, da questo punto di vista però, ammesso e non concesso che rimanga il dibattito aperto se si tratta di salvare il mondo oppure meno, la correzione avvenuta ieri all'ultimo secondo, per così dire, per evitare che apparisse una bocciatura su tutta la linea, sto sempre parlando di Barack Obama nella sua visita in Cina, da questo punto di vista secondo lei quale punto specifico tenta di salvare? Beh, il fatto che il vertice appunto sancisca un dato nuovo, perché non c'era mai stato, ricordiamo che l'amministrazione Bush negava l'esistenza del problema, la Cina era distante perché Kyoto fu un primo passo che poi doveva coinvolgere gli altri grandi paesi emergenti. Oggi i grandi paesi del mondo hanno un accordo in materia, voglio ricordare che anche il nuovo governo giapponese si è segnalato per un forte impegno su questa questione e Lula in questi giorni, anche per ribadire il ruolo del Brasile su scala mondiale, si è detto disponibile a prendere impegni seri su questa materia. Quindi è servito questa correzione a dire a Copenaghen possiamo dare un segnale importante. Vorrei tornare sulla questione degli incentivi, innanzitutto dobbiamo ricordare che spesso gli incentivi in Italia sono stati usati in direzione distorta. Guarda, io soffro a pensare che noi abbiamo speso, per esempio, prendendole dalle bollette degli italiani, Chip 6, esatto, tanto quanto i tedeschi, soltanto che mentre i tedeschi hanno usato quel prelievo dalle bollette dalla fiscalità per i cittadini tedeschi, effettivamente nel campo delle fonti rinnovabili, diventando una grande potenza mondiale nel solare, nell'eolico, noi l'abbiamo no. destinata noi no. in larga parte a attraverso una truffa perlomeno concettuale. No, lei l'abbiamo fino all'inizio finalizzata ai concorrenti privati dell'ex monopolista pubblico per metterli in un'unica logica di pool. Esattamente, cioè, sostanzialmente abbiamo battezzato fonti rinnovabili, residui di raffinazione e in parte l'incenerimento dei rifiuti, però soprattutto i rifiuti di raffinazione. Ma questo le spiega perché quando si tratta di incentivi noi giustamente dobbiamo... Assolutamente, bisogna stare attenti, ma io sono il primo a dire peraltro che per quanto riguarda gli incentivi alle fonti rinnovabili bisogna ovviamente che questi incentivi siano efficaci, che si riducano nel corso del tempo, che aiutino la competitività finale di queste fonti. Vediamo se la qualità della linea con Corrado Crini, il direttore generale del Ministero dell'Ambiente, è tornata. Prego Crini. Sono qui. Eccoci sono qua. Qui. Allora, stava dicendo. C'è un accordo preso al G8 dell'Aquila, confermato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre, riconfermato al G20 di Pittsburgh, tra tutti i paesi. Questo accordo dice cerchiamo di limitare l'aumento della temperatura media del pianeta entro 2 gradi entro i prossimi 50 anni. Rispetto l'aumento della temperatura rispetto ai livelli preindustriali, cioè metà del 1800. Tutti sono d'accordo su questa dichiarazione politica, assumendo che l'aumento delle emissioni di anidride carbonica e degli altri gas serra abbia un effetto diretto sull'aumento della temperatura. A questo punto nascono i problemi. Perché per raggiungere l'obiettivo della riduzione del 50% delle emissioni, che è quello che si dovrebbe fare entro la metà del secolo, bisogna cambiare il sistema energetico mondiale, perché le emissioni sono legate prevalentemente all'uso dei combustibili fossili e queste emissioni crescono soprattutto nei paesi a più rapida crescita. La Cina oggi è il più grande emettitore del pianeta, seguito dagli Stati Uniti, che pure nonostante la crisi economica ha avuto un incremento emissioni, a ruota l'India che sta diventando la terza potenza economica mondiale o lo sarà nei prossimi 20 anni, superando il Giappone. A questo punto questi paesi, in particolare la Cina e l'India, e poi il Brasile, l'Indonesia, sostanzialmente dicono: nessuno si immagini da nessuna parte, in particolare nessuno degli europei, si immagini che noi dobbiamo rinunciare al nostro sviluppo economico, che è essenziale anche per combattere la povertà. Per esempio in India la crescita delle emissioni è legata all'aumento della generazione di elettricità, per rendere l'elettricità disponibile a gran parte della popolazione che oggi non ha accesso all'elettricità. Questi paesi dicono: scordatevela di pensare che noi possiamo ridurre la nostra crescita economica o rinunciare al nostro sviluppo per salvare il pianeta. Perciò, se volete, siamo pronti a lavorare insieme, lo ha detto il presidente Hu Jintao all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, lo ha ripetuto Lula, come diceva Realacci, siamo pronti a investire nelle nuove tecnologie a basso contenuto di carbonio, nelle fonti rinnovabili, nell'efficienza energetica, eccetera. Però questi investimenti non possiamo sostenerli con le nostre risorse interne, ci vuole un accordo internazionale che finanzi il nostro sviluppo sostenibile. E questo vuol dire sostanzialmente che l'Europa e gli Stati Uniti e il Giappone devono scegliere di finanziare con risorse proprie lo sviluppo di economie che sono diretti competitori. Questo è il problema vero dell'accordo di Kyoto, non tutta l'architettura dell'accordo post-Kyoto, non tutta l'architettura che si è costruita sulle formule e sui meccanismi. Il nodo è: come si fa a garantire la riduzione delle emissioni globali di anidride carbonica assicurando lo sviluppo delle economie che oggi non sono sviluppate o che si stanno sviluppando, le cosiddette economie emergenti? E allora, mentre l'Europa ha immaginato un sistema di regole sostanzialmente basato sulla nostra cultura del comando e controllo, Cina e Stati Uniti, pur con attraverso un dialogo che è molto duro perché non si fanno assolutamente i complimenti, per esempio stanno cercando di capire come si fa a costruire insieme il sistema energetico cinese e perciò anche quello americano attraverso investimenti comuni e perciò attraverso la creazione di un'economia a basso contenuto di carbonio che sia insieme a favore della Cina e a favore degli Stati Uniti. Tant'è che se si guardano i dati della Banca Mondiale, la Cina è il primo paese al mondo per investimenti in tecnologie a basso contenuto di carbonio e gli Stati Uniti sono il secondo paese al mondo. Il terzo è il Brasile, la quarta è l'India, poi c'è la Corea del Sud e poi infine vengono alcuni, non tutti, dei paesi europei, perché i paesi europei stanno affrontando questa crisi soprattutto proteggendo le tecnologie tradizionali, le industrie tradizionali per contenere gli effetti della crisi sociale derivante dalla crisi economica, ma questo porta l'Europa in qualche modo fuori dalla traiettoria. Ecco, questo il problema di fronte al quale ci troveremo a Copenaghen non è tanto di sapere che tipo di impegno, quanto vogliamo ridurre, il 30, il 40, il 50, perché questi sono numeri che sostanzialmente di per sé non vogliono dire nulla. Il nodo sarà in che modo si crea la struttura finanziaria internazionale, si cambiano le regole del commercio internazionale che consentono di muovere questa trasformazione dell'economia mondiale e soprattutto di muoverla per dei paesi dove le emissioni crescono di più, perché è inutile ridurre in maniera consistente per esempio le emissioni in Europa, che oggi conta per il 15% delle emissioni globali, se poi non si riesce a ottenere un risultato significativo in Cina, in India e negli Stati Uniti, che invece contano più del 45-50% delle emissioni, globali. E questa impostazione appena richiamata a me sembra molto realistica. Io devo dire che tendo non solo a comprendere ma a giustificare, a considerare molto giusti gli appelli che vengono dalle Confindustrie nazionali dei grandi paesi europei e dalla Confindustria italiana, affinché l'Europa per prima non si ponga obiettivi troppo irrealistici, che sono impegni di investimento incredibili per le imprese, proprio perché bisogna tentare di non perdere di vista da una parte la legittima ambizione dei paesi in via di sviluppo a non venire compresse nella sua onda di crescita attuale, ma dall'altra il fatto che poi le grandi emissioni sono lì. Stagnaro, oggi sempre sulla stampa, a pagina 27, c'è un'intervista a James Hansen, che è il direttore del Goddard Institute for Space Studies, il quale è su una trincea molto più irrealistica rispetto a questa. Cioè la sua tesi, è un climatologo, è quello che Copenaghen non va bene perché troppo vicino a Kyoto, ci vuole ben altro, dice. E che cosa propone? Lo dico perché Clini ci ha richiamato anche alla necessità di fare attenzione ai diversi sistemi di comando e controllo, quello europeo rispetto a quello dei paesi in via di sviluppo e degli Stati Uniti. La tesi di Hansen è quello che a essere sbagliato fondamentalmente è l'idea del mercato dei diritti di emissione, perché al contrario, dice lui, poiché servono degli obiettivi di riduzione molto più stretti di quelli di cui sinora si parla, bisogna direttamente rendere più costose le emissioni invece che perdersi nei meandri del mercato dei diritti all'emissione. Il mercato dei diritti all'emissione merita una stroncatura di questo tipo, comunque la si pensi sugli obiettivi da raggiungere, oppure no, secondo lei? Secondo me sì, l'esperienza che abbiamo avuto in Europa da questo punto di vista è, per usare un complimento, fallimentare, nel senso che a fianco a un risultato di dubbia entità sotto il profilo ambientale, basta leggere i comunicati stampa dell'Agenzia Ambientale Europea, che ogni anno dà le variazioni delle emissioni dell'anno precedente, e normalmente queste dipendono da un lato dal clima stesso, cioè quando d'inverno fa caldo si consuma meno e quindi si emette meno per il riscaldamento, e dall'altro dalla crescita economica. Nel 2009, a causa della recessione, c'è stato un crollo delle emissioni in Europa e nel mondo. In tutto questo il sistema ETS, cosiddetto, cioè il sistema europeo di scambio delle emissioni, ha avuto un ruolo del tutto secondario, ammesso che sia misurabile. Accanto a questo però ha rappresentato un costo, non tanto in termini finanziari, perlomeno fino all'anno scorso, perché a causa di una serie di ragioni il prezzo dei permessi è stato molto basso, quanto in termini di distorsione dei meccanismi dell'economia, nel senso che nessuno può anticipare il prezzo dei certificati di emissione, che sono molto volatili, e quindi nessuno sa in realtà come deve comportarsi a fronte di questo sistema. Chi sicuramente ci ha guadagnato sono gli intermediari finanziari e le burocrazie europee, che sono state create e messe lì a gestire un meccanismo infernale. L'alternativa, nell'ipotesi di voler ridurre le emissioni in una data regione come può essere l'Unione Europea, l'alternativa molto più efficace secondo me è quella di una carbon tax, che però deve essere costruita in modo intelligente, nel senso che una carbon tax implica, così come un meccanismo di scambio delle emissioni del resto, un aumento dei costi dell'energia, per semplificare, e quindi un impatto significativo sul tenore di vita, sul potere d'acquisto dei salari. Questo impatto può essere mitigato o addirittura trasformato in un fattore competitivo se il gettito della carbon tax, quindi i soldi che vengono sottratti ai consumatori e alle imprese, vengono riutilizzati a loro favore, per esempio riducendo altre imposte più distorsive come il prelievo sul reddito, il cuneo fiscale o quant'altro. Ora una rapidissima chiamata. Ugo da Roma, prego. Ugo? Ci dica. Buongiorno dottor Giannino, mi sente? Sì, vada. Perché sono in treno. Ascolti, io intanto saluto lei e tutti gli ascoltatori. Io da sempre ho l'impressione che l'uomo sia di una presunzione esagerata nel pensare di poter incidere in qualche modo sopra questo meccanismo che la Terra ha di per sé. Quindi la Terra da sola nel 97% produce l'effetto serra, noi 3%, incidiamo il 3%, e ridurre del 50% il 3% ha dei costi mostruosi. È giusto farlo, però anche tenendo presente che i meteorologi diventano dei guru e i politici cavalcano questa cosa per fare politica, e poi c'è l'economia che ovviamente ne guadagna, perché tante più cose noi facciamo per modificare il nostro modo di emettere gas serra, tanto più l'economia gira. Eccoci tornati in studio, ci stiamo occupando del prossimo vertice di Copenaghen, i lavori cominciano il 7 dicembre, l'obiettivo è quello di verificare cosa fare per il dopo Kyoto, diversi punti di vista, grandissimo rilievo e grandissima importanza ovviamente per le misure che possono essere adottate, ma anche una grande difficoltà per concertare. Dicevo, rivolgendomi a Realacci, mentre alcuni ascoltatori sottolineano che in effetti i modelli matematici per le previsioni climatologiche continuano a far discutere e così via, però altri dicono: ah no, qui voi fate disinformazione, perché non può essere la radio di Confindustria quella che mette in dubbio l'importanza degli obiettivi molto più stretti e rigorosi e di un vero e proprio cambio tecnologico. Ma io non sto facendo questo. Quello che mi preoccupa, Realacci, è che noi siamo un po' reduci da qualche anno in cui anche su questo argomento ci si divide appunto in maniera un po' troppo ideologica, per cui ad avanzare dubbi, a tentare di far riflettere la gente su che cosa voglia dire in termini di incentivi l'adozione di obiettivi così stringenti per una parte del mondo piuttosto che per l'altra, si sembra al servizio di chissà quali oscure forze. Siccome ti so un po' immune da questo tipo di accusa per la tua storia personale, il tuo impegno, ti prego però di aiutarci a riflettere: com'è che parlare di numeri e di questioni così complesse, a volte, se non si sposa un mainstream, espone ad accuse di questo genere, secondo te? Ma le oscure forze poi ci sono sicuro che non sono quelle che muovono le sue riflessioni, che, però che io apprezzo sempre come intelligente. Le oscure forze spesso sono quelle anche dietro i grandi investimenti salva emissioni. Non c'è alcun dubbio, in tutti i campi, ma ci sono forti interessi costituiti che ovviamente vedono ogni cambiamento come un problema. Insomma, ecco, non è che quando, per tornare all'esempio fatto prima, quando la Fiat è entrata nel capitale Chrysler sia stata salutata da milioni di bottiglie di champagne da certi circuiti economici, no? Non c'è dubbio. E questo vale per tutte le vicende. Io penso che la cosa importante è acquisire la frontiera e poi gli strumenti, discutiamone. Quando Stagnaro dice la carbon tax, io sono d'accordo, io non sposo la strumentazione usata. Io penso che rendere più automatico nel mercato il disincentivo a certe forme di consumo sarebbe meglio, diciamo, e ovviamente bisogna tener conto del fatto che pro capite noi emettiamo molto più dei paesi emergenti. Per esempio, gli stessi indiani tuttora emettono meno della metà dei cinesi, no? Certo. E i cinesi a loro volta sì, emettono quanto gli statunitensi, però sono 4-5 volte gli statunitensi come popolazione, quindi insomma bisogna tener conto di questi fattori. Ma intanto io penso che dobbiamo acquisire questa direzione, perché è una direzione che in tanti campi ha un'efficacia enorme. Io stamattina leggevo che Scaroni ieri in un'audizione al Senato si è lamentato, ha ragione, l'ho fatto anch'io, diciamo, in aula. Gli ha detto che si sprecano troppa energia perché tengono la temperatura a 24 assolutamente gradi. Assolutamente sì, e questo non vale solo per la Camera dei Deputati o per il Senato. Tutte le case italiane, per esempio, per come sono costruite male spesso, consumano mediamente il doppio dell'energia di una casa tedesca, svedese o irlandese. Ora, rimettere in ordine le nostre case metterebbe in moto un enorme volano economico, farebbe risparmiare tantissimo le famiglie, almeno 1000 euro all'anno, diciamo, e avrebbe un vantaggio enorme dal punto di vista delle politiche che indichiamo, che sono anche una straordinaria frontiera di competizione. Voglio fare un esempio curioso. Io conosco una piccola azienda di Cattolica che ha valorizzato un brevetto che consente di utilizzare meno energia nell'illuminazione stradale. Come spesso capita a queste aziende italiane, questa è un'azienda che ha 40-50 dipendenti, ha cominciato a girare per il mondo a vendere questo brevetto e recentemente ha vinto una serie di appalti per oltre 100.000 punti luce in Arabia Saudita, tra cui la Mecca e la Medina. Quindi abbiamo Cattolica che illumina la Mecca, è un dato solo della toponomastica, speriamo che Bin Laden non la individui come un complotto crociato, ma è un esempio simbolico di quanto questa frontiera dell'innovazione, della qualità in tutti i campi consente alle nostre economie di essere più competitive. Ragioniamo a partire da questo e non assumiamo sempre la difesa di chi già esiste, dei vecchi interessi, perché questo ci porta al CIP 6 e non al futuro. Crini, lei crede a una prospettiva in cui nel mondo avanzato, a cominciare dai nostri paesi europei eccetera, la carbon tax può essere una delle misure attraverso le quali raggiungere più direttamente obiettivi come questi di cui parliamo oggi? Ma la carbon tax credo che sia la misura più diretta e più efficace. Io sono d'accordo con Jim Hansen, Tra l'altro tenga conto che questo è uno degli argomenti che sta bloccando l'approvazione dal Senato USA della legge sull'emission trading. Carbon tax vuol dire che si dà un prezzo al carbonio, se bisogna ridurre le emissioni di carbonio si dà un prezzo al carbonio. Il problema è che la carbon tax non può essere una misura che assumono alcune economie e non assumono le altre, perciò deve essere una misura globale, una regola del WTO, dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che sostanzialmente riconosce che c'è un sovrapprezzo per l'uso dei combustibili fossili, e questo dovrebbe essere di per sé un meccanismo di mercato che senza generare complicazioni burocratiche in termini di gestione delle entrate, perché carbon tax vuol dire c'è un prezzo superiore, punto. Questo potrebbe essere una chiave. Fra l'altro ho partecipato la settimana scorsa a Pechino ad una riunione di un gruppo di esperti che il governo cinese ha istituito ormai da 10 anni per assistere il governo cinese nella definizione delle politiche ambientali ed energetiche, con il presidente Wen Jiabao, e uno dei temi che abbiamo discusso insieme è proprio quello dell'introduzione di una carbon tax. La Cina si è dichiarata disponibile a condizione che questa sia una misura globale, non una misura che si applica soltanto su alcuni settori. Credo che potrebbe essere una strada interessante da esplorare, anche non alternativa al cap and trade, perché il sistema emission trading in verità è un sistema di scambio di emissioni, di permessi, che può funzionare e che funziona indipendentemente dal prezzo dei combustibili fossili, per cui le due cose di per sé non sono alternative. Il problema del cap and trade, dell'emission trading, è rappresentato dal fatto che genera un meccanismo finanziario, derivati finanziari, esatto, che fanno venire la pelle d'oca agli americani, e che dovrebbero farlo venire anche agli europei. E temo però che quel tipo di mercato costitutivamente va in quella direzione. Per questo io volevo chiudere la trasmissione proprio con un appello di convergenza alla carbon tax, e quella meno disincentivante come fornitura di mercati paralleli, per così dire. Esattamente. Certo, è una scelta precisa, però se dobbiamo fare questa cosa facciamola con una scelta precisa. Naturalmente significa adottata nel maggior numero possibile di paesi, altrimenti l'economia mondiale la disintermedia. Allora, su questa conclusione che fa giustizia un po' di tante polemiche, io ringrazio Corrado Clini, ringrazio Carlo Stagnaro, ringrazio Ermete Realace, ringrazio tutti voi che mi avete ascoltato, dandomi anche oggi in buona percentuale un pochino di essere orientato in maniera pregiudiziale. Non è vero, e nel dirvi che non è vero, ringrazio anche Paolo Corleone in regia e Alessandro Marco Tulli in redazione, Gloria Guerrera che mi ha assistito qui da Roma stamattina. La linea al Giornale Radio, appuntamento a domani. Radio 24. La passione si sente.